America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Los Angeles, a sud di Los Angeles, a Rancho Palos Verdes, in California, Mario Platero. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. You've Got a Friend in Me è una delle canzoni principali del film Toy Story 2. L'amicizia alla fine prevale in questo ambiente molto teso. Vi ho raccontato nei giorni scorsi come ci sia molta litigiosità. Well, when I was a kid in the 50s, for me, the two iconic figures were Walt Disney and Albert Einstein. Vi ho fatto ascoltare questa canzone perché Ed Catmull, che avete appena sentito, è il presidente di Disney Animation e di Pixar Animation, ci ha raccontato un po' di retroscena tecnologici su Toy Story 2. Ha spiegato come il film abbia avuto bisogno di un complete reboot. Ha usato proprio questo termine, il reboot in genere si fa al computer quando non funziona, cioè è stato preso in mano questo film, smembrato e rifatto praticamente da zero a tavolino, perché la prima versione che era stata licenziata non andava bene. Quando è stato chiesto a Catmull che cosa avrebbe voluto, se avesse potuto esprimere un desiderio, da Silicon Valley, ha detto: io vorrei poter arrivare in una situazione in cui la tecnologia, i computer, l'economia digitale mi consentano di fare un film con 100 persone invece delle 300 attuali di cui ho bisogno. One thing I know for sure is that Steve Jobs is a big enough person and led a big enough life that, you know, that there's room for more than one movie. L'altro grande personaggio del mondo dello spettacolo che ha rapito l'attenzione del pubblico, affascinato questo pubblico difficile, è Aaron Sorkin, autore di film e l'autore di sceneggiature importanti, molto modesto. Dice che lui alla fine è finito a fare quello che ha fatto perché erano tutti molto più intelligenti di lui quando cresceva, i suoi parenti, suo padre che faceva l'avvocato, dice, quindi mi sono innamorato di questa intelligenza e la mia missione è diventata quella di comprendere questa intelligenza e raccontarla di modo che altri potessero apprezzarla. Sorkin sta scrivendo la sceneggiatura tratta dal libro di Walter Isaacson su Steve Jobs, ecco, la sceneggiatura di un nuovo film su Steve Jobs. Il suo obiettivo è uno soltanto, ha detto: io non voglio attaccare Jobs, non voglio essere giudice di Jobs, cercherò di fare un film in cui Jobs in sostanza si trova solo davanti a Dio e gli racconta perché merita di entrare in paradiso. If Google was in China and they were stealing their intellectual property, they would leave China. Infine, il terzo intervento di ieri notte è stato quello di Ari Emanuel, che è il più grande, il più importante agente di Hollywood e che tra l'altro è anche il fratello di Rahm Emanuel. Lo avete sentito, provocatorio, difficile e pronto subito alla rissa. C'è una storia di famiglia che poi vi racconterò, ma la parte più interessante del suo intervento riguarda la dinamica di nuovo che lega la televisione, il mondo dello spettacolo al mondo digitale. Apro di nuovo una parentesi, perché è questo uno dei punti chiave di un piccolo esperimento che abbiamo fatto in questi giorni, cioè mentre guardando la televisione si può guardare il computer, quando si ascolta la radio le persone sono in macchina, sono in movimento, sono in giro. E dunque vorrei vedere se c'è un travaso possibile in un esperimento di hashtag social radio dall'ascolto radio a chiocciola Mario Platero su Twitter, con messaggi di consigli, di domande magari da fare qui a Ranchos Palos Verdes, dove si tiene questo convegno. Ma vi dicevo che l'interazione fra piattaforme diverse sta diventando il denominatore comune del futuro della televisione, e dunque la televisione che probabilmente sarà annunciata presto o tardi da Apple, unificherà tutto, cioè sarà possibile guardare la televisione e scrivere un messaggio sullo stesso schermo senza bisogno di avere dei computer diversi, diventa quindi un integratore. Ma Emmanuel, ve lo dicevo, ve lo anticipavo, viene da una famiglia, il fratello è sindaco a Chicago, Rahm Emanuel, ha lavorato con Obama come capo di gabinetto, un altro fratello invece è non soltanto medico ma è uno dei più grandi teorici della riforma sanitaria, quindi è un uomo che opera anche lui nella politica. Ecco, questi tre fratelli sono arrivati ai vertici ciascuno della loro professione. Perché? Perché quando crescevano il padre, di origine israeliana, nato in Israele e poi venuto in America, li costringeva a dibattere fino alla morte un qualunque tema del giorno e alla fine c'era solo un vincitore e gli altri perdevano. E dunque questi ragazzi attorno al tavolo, al desco familiare, sono cresciuti, ma voglio dire, quasi prendendosi a coltellate, e la cosa evidentemente in qualche modo è servita perché poi hanno avuto ognuno il successo che ha avuto. Ecco, vi dicevo che Emmanuel ha sollevato due questioni principali. La prima, la separazione fra la California del Nord, Silicon Valley, e la California del Sud, Hollywood. Hollywood non sopporta che Google, Verizon, l'ATT, insomma i grandi carrier, i grandi protagonisti dell'economia digitale consentano, nelle sue parole, il furto di content su internet. Dunque ha chiesto apertamente ad Apple di intervenire, cioè nello stesso modo in cui bloccate la pornografia infantile potete bloccare anche questo tipo di furto. Infine, cosa straordinariamente innovativa, ha deciso di produrre un film facendo il funding, la raccolta, in the cloud, nella nuvola, cioè su Facebook. Ha detto, ma io perché non posso trovare 1,5 milioni di utenti di Facebook pronti a pagare $10 ciascuno per contribuire, dunque essere partecipi e godere magari anche dei profitti, per contribuire, dicevo, alla costituzione di un capitale per fare un film. Ho bisogno di $20 milioni, se chiedo ad ognuno di questi 10, 12, $14, beh, ecco che ci arrivo abbastanza rapidamente. Emmanuel ha detto, la televisione non sarà più lineare, la televisione lineare, cioè la televisione alla quale noi siamo abituati, appartiene al passato, si aprono nuove frontiere, oltre che nel cinema e nell'animazione, anche nella televisione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, una canzone dedicata ancora oggi alla California, una delle mie canzoni preferite, uno dei miei cantanti preferiti, Roy Orbison, California Blue. Working all day. Sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. California blue, California blue, still missing. Da Los Angeles è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!